Posso uscire? Può uscire? Mi liberate? Subitissimo, sì, quando sono in imbarazzo sono dispotica. Esisto dentro il cantista, montagna senza cadere. Sei tu la mia prigione, la mia stretta, il mio destino. Sei tu il mio viaggio, sempre lato, dei miei sogni non torno indietro. Santo in alto, taglia forte, questa sorte non combatto. Una lacrima da fossa, inventando fango ti porto via. Hai sofferto troppo solo, con il sangue nelle gole. Non perdo più tempo, ti porto via. Non perdo più tempo, sei cosa mia. Tu sei la mia droga, nelle vene la mia malattia. Persone non hanno la tua naturalezza. Regniti, ti prego, salvami subitissimo.